Ehi, hey, ciao, come va? Non bloccarmi anche qua, sai, non ho niente da dimostrarti o che non dimostro manco l'età. Scusa, ma la miglior difesa per me è l'attacco di panico. Buchi nell'acqua ne ho fatti tanti che ho fatto a piedi l'Atlantico. E va bene, sto bene, fra di noi c'è un cratere, puoi cadere. Fare sbagli ci viene, solo insieme. Questo mondo fa schifo, infatti ti voglio un mondo di bene. E quando piango non mi vedi, ma rimango in piedi con gli occhi puntati su quei vetri. Ho un telescopio a casa e guardo sempre su quei cieli, perché tu mi scrivi solo se sei lì nei pianeti e fa male. Sì, ma non ci devi pensare, nella mia testa c'è una tempesta e non è temporaneo questo temporale. Sbaglio a chiamare, sbaglio a chiamare. Niente da fare, lasciami stare, tutto normale. Abbracciati da sola che ora me ne devo andare. E forse ti sembrerò un'idiota totale quando ti manderò questa nota vocale. Tanto non mi rispondi mai, tu non mi ascolti mai. E mi dicevi sempre che non so, se non riesco a dormire, ma continuo a sognare. Tanto non mi rispondi mai e non mi ascolti mai. Resti sempre raggiungibile. E ti avrei tolto tutti i vestiti se soltanto io avessi potuto. Ma se guardi come siamo finiti, alla fine ti ho tolto soltanto il saluto. Sai che non ti chiedo aiuto per non sembrarti depresso, solo che il mio passatempo è guardare il mio show preferito, il tuo ultimo accesso. E per quanto mi riguarda, una meta vale l'altra. Vivo con la mia valigia fatta. È inutile che tu mi dica scappa, perché il destino segue la mia mappa. Ho le frasi nella pancia come se mangiassi baci perugina senza togliere la carta. Ti do quattro baci sulla guancia, due per te, due per la doppia faccia. E forse ti sembrerò un'idiota totale quando ti manderò questa nota vocale. Tanto non mi rispondi mai, mai. E mi dicevi sempre che non sono normale. Se non riesco a dormire, ma continuo a sognare. Tanto non mi rispondi mai e non mi ascolti mai. Resti sempre raggiungibile. E giro a vuoto e non so più chi sei. Per me sei sempre raggiungibile. È uguale solo il numero sopra il display che non cancellerei. E forse ti sembrerò un'idiota totale quando ti manderò questa nota vocale. Tanto non mi